Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Ci siamo alle 8.20, eccoci Oscar. Eccoci qua in questo 12 aprile, 13 aprile, no? 13 di aprile, ero rimasto fermo a San Zeno, invece no, oggi è San Martino I, Papa nel 649, insieme ad altri santi, Ida di Boulogne, che era la mamma di Goffredo di Bouillon, la mamma quello delle crociate, è diventata santa praticamente solo per questo, e poi nomi come al solito un po' singolari. Oggi è San Caradoco, San Carpi, San Papilo, Santa Agatonica, Sant'Orso e San Marzio. San Carpi, quindi a Carpi sarà il patrono dei Carpi. Perché in realtà questi sono nomi grecizzati, perché sono Carpi, Papilo e Agatonica, sono la serie di martiri dell'Asia Minore, delle comunità cristiane dell'epoca, quindi Carpi. Però visto ci ascolterete da Carpi, ditecelo al 349-238-6666. Ma che Carpi, Gianni, siete? San Carpi, a Carpi. Ora invece oggi di ricordare qualcuno che è nato e che è morto, fammi ricordare una cosa, perché ci sono dei numeri che a me a volte colpiscono. Siamo andati a vedere, la cosa per chi interessasse la trovate sul sito www.truenumbers.it. Siamo andati a vedere quanto sono cambiate in 10 anni le retribuzioni pubbliche. Allora, sai che c'è una bella scoperta? Cioè, tra il 2004 e il 2014 i magistrati sono passati da 105.000 euro a 142.000 euro. Di retribuzioni. Abbastanza. Ma poi dice, ce l'hai con i dipendenti pubblici? No. Perché in realtà, per esempio, per i poliziotti nella busta paga negli ultimi anni ha avuto dei tagli. Pensate, da 38.000 euro medi 2011 a 400 euro in meno nel 2014. Pensa un po' tra magistrati e poliziotti. Capito. Che bella cosa. Gli insegnanti solo 29.000 euro e così via. Però tutti i numeri paragonati li trovate su www.truenumbers.it e escono alle 12. Sta cosa dei magistrati non mi pare. Non mi pare. Allora, caro Oscar, a mio modo di vedere oggi i giornali aprono con due notizie, sì. Ma secondo me la più importante anche per i riflessi che avrà è la scomparsa di Casaleggio. Gianroberto Casaleggio. Sì, perché ora tutti a chiedere anche che succederà al Movimento 5 Stelle dopo che lui non c'è più. Grillo voleva o aveva annunciato di fare un passo di lato. Che qual è tra i tanti pezzi quello che più sentito la sia stampa, ma quello che ti ha colpito un po' di più, quello che ti ha più dato ma guarda, sulla questione della cronaca li ho un po' tralasciati, quello del dopo forse l'articolo del Corriere della Sera di Buzzi e Marisio, Buzzi, che dicono che entro giugno ci sarà la votazione online per avere il candidato premier, di fatto il nuovo leader del Movimento 5 Stelle, anche se uno vale uno, lo sappiamo, eccetera. No, infatti. Se succederà, pure dicono Di Maio, però insomma, il direttore era avviato da un bel pezzo. A me è piaciuto abbastanza Cazzullo sul Corriere, cioè questo fatto che Casaleggio avesse questa sua idea che la politica passava contemporaneamente sia per l'alto che per il basso, spiazzando tutti, perché questa è la verità. Casaleggio è stato uno che ha spiazzato la visione tradizionale della politica, poi discutibile le sue visioni, quello che si vuole, però un personaggio secondo uno me, per esempio, che non andava sui media, anzi li rifuggiva, li evitava accuratamente, e oggi Paolo Mieli sull'Unità dice proprio per questo, un po' come Cuccia, proprio per questo ha accresciuto la sua potenza mediatica, paradossalmente. Ecco, no? Mi ha colpito molto che Paolo Mieli lo accostasse a Enrico Cuccia, ma mi ha colpito nel senso che c'è senso un significato. Gestione dei mezzi di informazione. Coltivare un'idea di sé così elevata che non si mischia e non si abbassa a ciò che qualunque politico invece fa. I politici non vogliono altro che andare in televisione. Lui proprio diceva lui è proprio il contrario. Tanto scusa, ma perché vedi, i nostri ascoltatori sono talmente reattivi, ci fanno sapere ben in tre che San Bernardino da Siena è il patrono di Carpi ed è il 20 maggio. Ma San Bernardino da Siena, patrono omonimo, ecco. Scambiatevelo. Non è San Carpi ma San Bernardino da Siena. Povero San Carpi, non lo hanno voluto a Carpi. Insomma, Comunque, lo so, che succederà adesso al Movimento 5 Stelle? Certo, dobbiamo chiedercelo e vogliamo anche chiederlo ai nostri ascoltatori. Ai nostri ascoltatori all'800 24 00 24. Oggi parleremo anche di referendum, perché avremo Michele Migliano presente alla regione sulla Trivella. Però se vogliamo parlare del partire, domanda, la scomparsa di Casaleggio aumenta la possibilità del quorum, per esempio? Boh. Chi lo sa, insomma, vogliamo intanto chiederlo, fare questa prima domanda ad Antonio Padellaro del Fatto Quotidiano. Buongiorno direttore. Buongiorno, buongiorno a tutti. Oscar, chi dice anche questo, potrebbe addirittura portare a un aumento del quorum. Tante volte anche eventi così, anche l'evento tragico. La scomparsa di Berlinguer ebbe un effetto elettorale pazzesco. Certo. Naturalmente i personaggi sono diversi, i tempi sono diversi, i partiti sono diversi. Quindi. No, io non mi avventuro in previsioni, ma non credo perché... È difficile che il quorum del referendum per il referendum sulle trivelle, non so, superi il 30-35%, già sarebbe un grosso risultato, e non credo che la morte di Casaleggio abbia questa influenza. Insomma, qui il referendum è una partita a sé. È una partita a sé. Invece sicuramente si dovrà capire ora che succederà al Movimento 5 Stelle. Credi, Padellaro, quando si dice che entro giugno si voterà una sorta di leader e tutti guardano a Di Maio, anche se leader è un qualcosa che proprio cozza con il senso del movimento? Sì, ma può darsi, ma io penso che il ruolo di Casaleggio non fosse quello di leader. Casaleggio era un organizzatore, cioè lui ha dato struttura a un movimento che era un movimento veramente liquido all'inizio. Intanto ricordiamo una cosa, perché al di là di tutto e al di là del giudizio politico sul Movimento 5 Stelle, noi abbiamo assistito nel 2013 a un fenomeno forse unico nella storia italiana, cioè un movimento praticamente nato dal nulla, che aveva avuto delle esperienze a livello regionale, che diventa quasi il primo partito italiano e raccoglie più di 8 milioni di voti. E punto primo. Punto secondo, tutte le previsioni dicevano che questo movimento piano piano sarebbe dissolto, no? Perché, sì. Perché tutte le loro beghe interne, i rimborsi elettorali, gli scontrini, le espulsioni, non deponevano bene, sembrava veramente una cozzaglia di personaggi in qualche caso o inesperti o abbastanza bizzarri. E invece oggi vediamo che non solo secondo i sondaggi sempre il movimento si è consolidato e resta sempre su quelle percentuali del 23, 24, 25%, ma addirittura candida a Roma, nella città più importante del paese, una signora, la signora Raggi, che ha buone possibilità di diventare sindaco. Sì. Tutto questo si deve anche all'organizzazione di Casaleggio, che non era soltanto il visionario del web, era un uomo molto pratico. No, ma è pragmatico. Girava l'Italia e organizzava il partito. Appunto per quello, però, Padellaro, si dice adesso lui non c'è e ci sarà il figlio. Grillo ha detto faccio un passo di lato e molti si interrogano a questo punto chi prenderà questa eredità, anche organizzativa, fondamentale. Sì, non nessuno come Casaleggio evidentemente, perché nessuno come Grillo, perché dal punto di vista proprio della novità, Grillo e Casaleggio, questa coppia ha rappresentato veramente un fatto secondo me unico e irripetibile. È possibile che l'assenza di Casaleggio e il fatto che Grillo forse sia anche un po' stufato, perché ricordiamo che Grillo è un personaggio così, insomma è uno che vive anche... è uno che secondo me si annoia molto, adesso si è forse un po' annoiato di fare il leader del Movimento 5 Stelle, infatti ha ricominciato a fare gli spettacoli eccetera. È possibile che la mancanza di un elemento forte, organizzativo e intelligente, parlo di intelligenza politica, porti a una crisi del movimento, perché non escluderlo? Anche se in questa fase il movimento continua a raccogliere consensi, ricordiamolo, più che per merito suo, per demerito delle altre forze politiche che mostrano veramente la corda sotto tanti aspetti. Sì, sì. Oscar, però bisogna capire davvero che succederà. Tu credi a questa idea di un Di Maio leader e quindi ricalcare un po' quello che succede anche negli altri partiti? No, tiriamo a padellare. Io penso, per esempio, quello che mi ha colpito, ho visto dei titoli come oggi quello di Repubblica, rischiamo di esplodere la grande paura del Movimento 5 Stelle. Ci vedo un po' molti giornali oggi che fanno titoli così, wishful thinking, cioè ognuno poi se la cuoce come pensa politicamente, e un po' i giornali lo fanno. Non so, io fossi in loro ragionerei che per amministrative bisogna stare compatti nel nome del ricordo del Casaleggio, attenti a evitare ogni sbavatura, poi dopo si vede, invece qua subito tutti raccontano una realtà come se ci fosse una cosa a coltello. Vedremo, Padellaro che ne pensa? Ma sì, Di Maio, no? Parliamo delle persone, sì. Di Maio, Di Battista, per carità, Di Maio... come altri del movimento in Parlamento, Oscar, tu ti occupi di queste cose, sono cresciuti, insomma, hanno imparato il mestiere. Sì. No? Sì. Cioè, erano arrivati che non sapevano neanche dove andare, non conoscevano neanche la toponomastica del palazzo, e adesso li vediamo preparati. Quindi io intanto mi fiderei di questa crescita di persone molto giovani, perché l'età media della rappresentanza parlamentare è molto bassa. Di Maio non mi sembra, mi sembra un secchione, a scuola no, c'erano queste persone che studiano molto, ma non mi sembra che abbia il carisma per guidare il movimento. Ho paura che se lì non trovano veramente un accordo più che politico, sto per dire d'amicizia. Sì, umano, sì, caso, sì, ma insomma è ovvio che la caratura umana nelle leadership collettive è fondamentale. Quando è salta fondamentale, quella, finisce a coltellate. Sì. Vedi la storia delle varie leadership DS, PD, eccetera, eccetera. Sì, sì, la sinistra da questo punto di vista ha sempre dimostrato l'opposto. Siccome hanno passato il tempo ad ammazzarsi l'uno con l'altro, sono ridotti come sono ridotti. Ecco, io spero che il Movimento 5 Stelle, ma non perché faccia il tifo per il Movimento 5 Stelle, ma perché rappresentano una cosa importante. In fondo Grillo è riuscito a far entrare nelle istituzioni un movimento di protesta che fuori dalle istituzioni poteva essere pericoloso. Esatto, sentiamo anche Nicola da Padova, ci chiama. Nicola, buongiorno. Buongiorno a voi. Io voglio ringraziare intanto il direttore Padellaro per le parole che finalmente danno un po' di credito al nostro movimento. Io sono un attivista di un piccolo comune di Padova. Volevo intervenire dicendo che Casaleggio ha insegnato un po' al mondo della politica un modo diverso per farla. Noi cittadini ci siamo avvicinati senza esperienza, noi abbiamo due consiglieri del nostro comune che non avevano alcuna esperienza, e quindi non penso cambierà nulla, nel senso che il movimento è fatto di cittadini responsabili, onesti soprattutto, e molto competenti. Quindi il fatto di aver dato la possibilità a un movimento come questo, fatto appunto solo di cittadini, di cominciare a prendere praticità con l'amministrazione, ci consente in questo momento di ambire anche ad amministrare i comuni. Ci sono alcuni comuni. Beh, già ci sono, stanno, già ci sono alcuni comuni. Ma molti li stanno demonizzando, perché non sappiamo, molti non sanno i grandi risultati di Parma, di Pomezia Terme, oppure di Livorno, che sta appena iniziato, quindi bisogna dare il tempo agli amministratori. Ma noi siamo convinti di poter ambire anche ad amministrare piccoli e grandi comuni. La Raggi, che prima non era nessuno, come non era nessuno Di Maio e Di Battista, sta dimostrando che all'interno del mondo politico italiano ci sono persone che possono tranquillamente ambire a governare una città anche importante come Roma. Va bene, grazie Nicola, grazie, è appunto attivista del Movimento 5 Stelle, come si definisce. Niente, noi qui ci dobbiamo fermare, ringraziamo Antonio Padellaro del Fatto Quotidiano, staremo a vedere, tra l'altro domani ci saranno i funerali di Casaleggio, quindi diciamo fino a domani tutto è, come dire, anche fare discussioni sul dopo, giustamente no? Le si fa senza quelli del Movimento 5 Stelle che sono impegnati, insomma, in altre cose. Sai come era registrato all'ospedale, con che nome? Gianni, sì. Isolato, no? Ho isolato. Visto, ovviamente mi ha colpito, però era coerente con quanto, insomma, uno che vuole vivere in montagna, che non vuole rotture di scatole, ecco. Cioè, separato dal mondo e contemporaneamente con un mondo lontano in testa, tutto integrato, esatto, in tecnologia. È pieno nel mondo perché con internet. Pensa, dice, no? Nella rete. Tra l'altro tu prima hai fatto riferimento a una sorta di paragone a Berlinguer, non so se lo sapevi, ma in una delle rare apparizioni pubbliche Casaleggio incitava la folla a urlare proprio Berlinguer per dire lui e la questione morale sono ciò che dovrebbe arrivare a Palazzo Chigi. Ti dirò che mi colpì tantissimo quando lo fece, perché io sono convinto che lui fosse, adesso devo stare attento per la formula, sì, si sì. Presta a essere equivocato. Ho già capito, no, più, non no, proprio di sinistra, diciamo. No, ma no, il contrario, nel senso che lui, in questa sua vena ereticalmente monacale, era una specie di comunista deluso, convinto che poi la tecnologia, internet, avesse cambiato le coordinate rispetto al vecchio socialismo. Però questa vena dell'austerità berlingueriana fuori dal mondo, Berlinguer era contro i buoi colori, i consumi di massa, eccetera, eccetera, da una parte gli piaceva, perché significava preservare meglio la natura. Lui aveva questa idea ambientalista iperportata all'estremo. In questo Berlinguer gli piaceva. Mi dice, ma guarda un po', questa è una specie di comunista deluso dell'austerità. Che però risolve tutto con internet. Quindi pensa un po', mi colpì tantissimo quella roba. Colpì molto. Comunque, dopo la pubblicità avremo Michele Emiliano, parleremo un po' di questo referendum, perché in sordina non se ne parla. È vero, anche secondo me non si raggiungerà mai il quorum, però così, ma è una previsione, non è un tifo il mio, è una previsione, almeno così. Poi le previsioni sono fatte per essere smentite, ma poi finisce che poi è come il Milan, finisce Brocchi. Esatto, e poi arriveremo al Milan, finisce a Brocchi. No, niente. Michele Emiliano, parleremo un po' di referendum tra poco. Sono le 8:40 minuti, c'era Oscar Giannino che era basito da questa dichiarazione programmatica del candidato, forse sindaco a Roma, Antonio Razzi. Antonio Razzi. Per combattere l'invasione di Razzi. Razzi nella grande capitale, ha comunicato il suo primo grande punto programmatico. Ha preso contatti con l'Asia per l'arrivo di 50.000 gatti. Forse 500.000 addirittura gatti. 500.000 gatti. Tu dici che sono 500.000? Non lo so, me è un errore del giornale. 50.000, 500.000. Però se sono 500.000 gatti diventa ancora più surreale. Certo, ci sono i ratti a Roma, assumiamo gatti. Gatti, razzi, ratti. Questo è il programma, è GRR. Razzi, ratti, gatti. Questo potrebbe, mi è dato lo slogan elettorale. Vabbè, parliamo di una cosa un po' più seria. Tutti in Alberano Cattolico, miau. Domenica si vota al referendum, un po' in sordina se ne parla, ma dalle 7 alle 23 si voterà al referendum. Oscar, spieghiamo bene, non è un referendum perché viene detto sì trivelle, no trivelle, non è proprio così, no? Che referendum si vota? L'iniziativa referendaria per la prima volta storia repubblicana, animata e dovuta alle regioni, questa nasce per iniziativa non di raccolta delle firme popolari ma delle regioni, in realtà era volta a sei quesiti che erano tutto, esatto, l'orizzontale e il verticale del ritorno alle concessioni e alla ricerca di energia petrolifera in Italia dovuto al governo Renzi. Quindi in effetti nasce come iniziativa, nasce in cui è corretto definire la nostra, certo, Renzi. Però è passato. Poi, un solo quesito. No, Renzi fa retromarcia la legge di stabilità per evitare il referendum su quello che aveva deciso e quindi tenta di mascherare le tracce sperando così non è. Però lo fanno male, la retromarcia, e dimenticano questo, che è il quesito residuo sulla durata della concessione, già concessa quindi, che coincida con il fatto che nel bacino da cui si estrae ci sia ancora roba da estrarre. E l'idea è che quindi se si abroga questo quesito, per così dire, la concessione deve avere invece una durata inferiore alla durata del bacino. Però non è che, come criticano molti, le regioni, Emiliano che abbiamo qua, fin dall'inizio si siano concentrati su un aspetto secondario. L'aspetto secondario era parte di un no complessivo, chiaro, sul quale il governo ha sbagliato a fare retromarcia un po' male. Però, mi sbaglio? Diciamo, mi sbaglio? Lo chiediamo a Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia. Buongiorno, presidente. Buongiorno. Uno che sta portando avanti, insomma, la battaglia, posso dire, più degli altri governatori? Cioè, si sente appoggiato da tutti coloro che sono partiti all'inizio con lei oppure da qualcuno? No. In realtà io sto ubbidendo a due cose importanti. Uno è il programma di governo della Puglia. Secondo è il voto del Consiglio regionale della Puglia. Cioè il referendum non viene chiesto dai presidenti, viene chiesto dall'organo della sovranità. Quindi praticamente io sto facendo il mio lavoro, nel senso che mi hanno chiesto di fare la campagna referendaria, io la faccio. Come è nata questa campagna referendaria? Il governo dopo che c'erano state tante polemiche sulle trivellazioni nelle 12 miglia, cioè vicine alla costa, il governo fa un errore, lo ha ricordato bene Oscar Giannino, cioè con riferimento alle procedure in corso, perché ovviamente ogni volta che si fa un divieto in Italia si salvano le procedure in corso, cioè tutte, scherzo. Con riferimento alle procedure in corso il governo applica lo sblocca Italia e quindi fa saltare il tappo delle regioni e la Puglia rischiava di avere 12-13 autorizzazioni alle trivellazioni attorno alle sue coste per centinaia di posti, perché ogni autorizzazione può avere anche più posti. A quel punto noi andiamo al ministero, quello famoso ministero dove c'era la Guidi, sì. Andiamo lì per dire guardate che avete fatto un pastrocchio, cioè avete prima stabilito che c'era il divieto nelle 12 miglia, adesso con lo sblocca Italia facilitate le ricerche nelle 12 miglia, che facciamo? Non ci ricevono neanche, cioè noi abbiamo provato a parlare col governo e non ci siamo riusciti, siamo stati costretti al referendum, il referendum ha costretto il governo alla retromarcia, si è ingoiato i governi, ha sbagliato a mangiarsi l'ultimo quesito, che non è banale, no. Perché nelle 12 miglia ci sono 92 piattaforme, la metà di queste non danno più niente, vanno chiuse, per chiuderle ci vogliono un sacco di soldi, i petrolieri non li hanno perché in questo momento il petrolio va male, non hanno accumulato soldi, il governo che fa? Anziché dire chiaramente, guardate abbiamo un problema Houston, no? Gli allunga le concessioni all'infinito in modo tale che poi vediamo, sì. Una cosa all'italiana, all'italiana. Questo senta Presidente Vidal, è quindi molto importante, no, ma è chiaro, e lei ha invita tutti gli italiani ovviamente ad andare a votare e a votare sì, ma siamo pragmatici, lei crede davvero che si raggiunga il quorum? Ma io credo che a questo punto il referendum abbia già vinto, quindi raggiungere il quorum è importante, ovviamente noi faremo di tutto per farlo, però il governo stesso quando invita all'astensione per non far raggiungere il quorum contraddice se stesso ancora una volta, cioè i pastrocchi sono infiniti, perché immaginate che nella riforma costituzionale che è stata approvata ieri il quorum del referendum è stato abbassato di molto, proprio perché quello previsto dai padri costituenti del 50% degli elettori viene considerato irraggiungibile. Però questo riguarda il futuro. Esatto, riguarda il futuro. Riguarda il futuro. E quindi guardate un po', anziché affrontare la transizione tra il referendum dei padri costituenti e quello nuovo con un po' di tranquillità, il governo addirittura vuole approfittare di una norma che considera giusta, ingiusta e che quindi ha cambiato per ottenere il risultato di sconfiggere le regioni e il movimento notrio. In tutta sincerità io non ci sto capendo nulla, anche perché la maggioranza delle regioni che hanno fatto il referendum sono del Partito Democratico, sì. Esattamente come il governo. Ma lei non ci parla tanto con Renzi. Facciamo una domanda politica. Lei non due so giorni... se sia una fortuna o una sfortuna. No, però lei due giorni fa ha rilasciato un'intervista politica che partiva dal referendum, ma era un'intervista politica in cui ho fatto un mezzo salto sulla sedia perché ha usato dei termini verso Renzi. Insomma, io un certo li avrà ben tarati, quindi vuol dire che c'è una strategia. Cioè, lei ha detto testualmente, inizia col referendum, la battaglia poi si porta nel partito... perché Renzi, testuali parole, è alleato con il peggio dell'Italia, è diventato un'alleanza delle peggiori, impresentabili, tutte queste parole che ha usato lei, lobby italiane, che era un giudizio che ho detto... Sinceramente è un'intervista alla stampa, io l'ho riletta con attenzione, si faceva riferimento all'alleanza nel referendum, nel referendum Renzi è dalla parte dei petrolieri, ripeto... I petrolieri sì, avrebbero bisogno di aiuto, è un settore dove ci vogliono un sacco di soldi e le banche sono molto esposte con i petrolieri e quindi gli volevano dare un aiuto, però siccome non avevano il coraggio di dirlo si sono inventati lo sblocca Italia che per metà fa riferimento alle norme sulle prospezioni, cioè le ricerche e le estrazioni di gas e di petrolio. In questo paese bisogna dire la verità, poi il governo si prende la responsabilità di dire questo settore è strategico, ovviamente non lo è strategico perché tutto il gas e il petrolio estratto in questo paese non equivale che al 10% del fabbisogno, quindi non però non è poco, non è poco, non è poco, ma non è strategico. Senta, ma lei al distretto dell'Emilia Romagna, dei 30.000 dipendenti italiani, ma quelli che dicono ma qua il mare non è mai successo un incidente, il mare siamo tutti organizzati, lavoriamo, ma perché volete mandarci a casa quando non c'è? Innanzitutto in Emilia Romagna sono già tutti a casa perché moltissime delle piattaforme non gettano più né gas né petrolio. Hanno licenziato l'anno scorso più di 1000 persone, per, a prescindere dal referendum, cioè il settore è in crisi. Così rischiano di licenziarne ancora di più. Però. Sì, però parliamo di un numero piccolissimo di persone. Voi immaginate che nelle energie alternative noi abbiamo licenziato 10.000 persone. Ma le abbiamo licenziate perché abbiamo dovuto fare marcia indietro, perché gli regalavamo troppi soldi, legge, però. Però voglio dire che con la vecchia legge, quella che peraltro è sempre stata in vigore fino ad oggi, perché praticamente la nuova non ha neanche cominciato ad agire, non hanno mai licenziato nessuno e non hanno mai chiuso nessun pozzo prima che si esaurisse. Quindi sono un po' balle da referendum che noi purtroppo ci dobbiamo ingoiare, perché le dice il governo. E quindi ma senta, però Emiliano, lei dice che al ministero non l'hanno neanche accolta per parlare all'epoca. Me. No, non ha accolto, accolto tutte le regioni. Tutte le adesso le chiedo. Le persone non hanno potuto parlare lo, col no, ministero, certo, col quale poi invece era facilissimo parlare appunto, per l'Europa del petrolio. Appunto, le chiedevo giusto questo. Cioè, visto, ma però non bisogna avere le fidanzate giuste. Non ricevevano le regioni, che effetto le fa a leggere? Ma no, è così. Non ce l'ho con lei. Come... Milan, la domanda è inammissibile perché contiene la risposta. Esatto. ecco. Va bene, che effetto ci vuole le fidanzate giuste? Mi viene una mortificazione infinita, ovviamente. A leggere quello che legge, certo. Lì ovviamente quello è un ministero delicatissimo, dove ci sono interessi di miliardi, e ci vorrebbe che l'articolo 97 della Costituzione, il principio di imparzialità della pubblica amministrazione, fosse osservato in maniera rigidissima. Invece abbiamo verificato che per noi era impossibile parlare, proprio impossibile. Noi non siamo mai riusciti a parlare col governo della vicenda referendaria. Avremmo potuto evitarlo anche 20 giorni fa, 10 giorni fa, sarebbe bastato un piccolo decreto del governo che accogliesse la riapposizione del termine massimo di sfruttamento dei giacimenti. Avremmo evitato questa storia. Io penso che il governo se l'era figurata così: riduciamo a uno il quesito, mortifichiamo il movimento No Triv che ci ha sconfitto, obbligandoci a tornare indietro, a reingoiarci tutte le, diciamo, pasticci che avevamo infilato nello sblocca Italia, e poi ricominciamo a bastonarli. Però ho l'impressione, guardi, che si sono fatti male i conti. Sì, no, non l'hanno fatto apposta, hanno fatto un errore in Parlamento, io di questo sono certo, poi per dirlo agli ascoltatori. Gli è scappato, quindi, perché avrebbero voluto annullarvi proprio senza io neanche... Io avrei preferito avere a che fare con un governo come cattivello piuttosto che pasticcione, perché pasticcione rischia dovunque. Capisco. Tra l'altro ieri Emiliano, Oscar Giannino qui giustamente si discuteva della questione del legittimo votare, non votare. Il presidente della Corte Costituzionale ha detto credo che si debba votare, poi tradotto in bisogna votare. Renzi dice non bisogna votare. Cioè è legittimo per lei che il presidente del Consiglio dica non si voti perché si vuol far fallire il quorum? Il presidente del Consiglio deve fare l'arbitro, non può fare il giocatore. Quindi che è confuso. Lanciare l'invito all'astensione è un errore politico di dimensione storica. Ha chiamato come giustificazione il fatto che un tempo un partito, IDS, avevano lanciato l'astensione sulla materia del lavoro, adesso non me lo ricordo. Sì. Ma un conto è un partito, un conto è il Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio deve fare l'arbitro. Però è una questione di opportunità, come ha detto lei, quindi è una cosa politica. Deve tacere oppure dare un'indicazione chiara. Però la verità è che lui è un giocatore. Cioè, i giocatori in campo siete Renzi da una parte e lei dall'altra. Questo è punto vero. Magari anche per il futuro. Magari anche no, per... io non sono assolutamente all'altezza del Presidente del Consiglio, che è un giovane, forte, pieno di energie. Io ho vissuto una vita intera nelle istituzioni e ho davanti 5 anni di governo della Puglia, che non è certamente in condizioni tali da potersi permettere un presidente distratto. Va bene. Ma per concludere la domanda iniziale, ma si sente supportato dalle altre regioni o no? Perché Guardi, io mi sento mi sento supportato da un sacco di gente. Cioè, io penso che la brava gente in questo paese ha riflettuto, ha studiato, si è guardata le carte, e alla fine penso che molti andranno a votare sì per una questione di giustizia e di eguaglianza, e per dire che i beni pubblici, e tra questi il più importante di tutti è la bellezza, va conservato, anche perché è la consolazione di chi non conta niente, la bellezza. Cioè, chi non ha ville, chi non ha possibilità di andare in vacanza, cosa può fare? Ci sta spiegando che il futuro politico è la Boschi, perché è la consolazione che non ha niente. Vabbè, allora va bene. No, è una battutaccia. Battutaccia. Non faccia l'impertinente, te l'ha detto anche Emiliano. Non faccia. Va bene, Emiliano, la ringraziamo. Buona giornata, ovviamente. Sai che Oscar dicono ratti, razzi, gatti e stigazzi. Qualcuno ci ha commentato. Come vedi, gli ascoltatori accolgono le provocazioni dei politici immaginati. Sì, c'è Alfredo da Bologna, possiamo tenerlo per domani? Che così tanto credo che voglia intervenire sui referendum. Se uno di questi giorni vuole intervenire, ci teniamo il numero. Alfredo, la bellezza consola chi non ha niente. Questo è fantastico. È bello, esatto. E a chi si riferiva? A cosa si riferiva? La bellezza ambientale, però io penso che altri la declinerebbero in un altro modo. Mi sbaglio io forse. Va bene. Oscar, ci dobbiamo fermare. È tornato Lorenzo Nespoli, è tornata Elisabetta Fusconi, c'è sempre stata. C'è Peter Bescapè in regia e noi siamo qua. Oggi alle 4:30, Oscar Giannino. Gatti, ratti, razzi.